Allora, abbiamo già una diretta qui ad Radio Onda Rossa inerente al discorso che ruota intorno al nucleare. Oggi c'è un sit-in sotto l'Enel, se ho conferma, vero? Sì, infatti stiamo chiamando dal sit-in della dimostrazione di protesta sotto la sede centrale dell'Enel, dove, in Viale Regina Margherita, qui a Roma. Sì. Dove oggi si tiene l'assemblea ordinaria e straordinaria insieme e per l'approvazione del bilancio cosiddetto di esercizio dell'anno 2010, ma dove sicuramente, come dire, l'Enel parlerà anche di quello che si approssima rispetto alle proprie necessità, chiamiamole così, pensando nel comunismo, riguardo alla questione energetica in generale, in particolare del nucleare. Siamo circa un centinaio di persone, anche se qualcuno già ha cominciato a sfollare, siamo qui praticamente dalle 2, 2 e mezza. Ci sono, diciamo, parecchi striscioni, parecchie bandiere, dal WWF a verdi vari, diciamo striscione di De Cobas, c'è la Lega Ambiente, c'è il Rosso Vivo, Ambiente e Società, cioè, insomma è una cosa variegata e grosso modo diciamo fa lo stesso numero di persone e di protagonisti un altro settimo che si è tenuto questa mattina di fronte alla sede della RAI a Saxarubra. Mi senti? Sì, ti sento. Ah no, siccome non vedevo più il display del mio telefonino. No, vai tranquillo, ti sento. Dicevo, sono gli stessi protagonisti che questa mattina di fronte alla sede RAI qui a Roma hanno manifestato con un altro settimo per la nuova vicenda, che praticamente siamo in campagna elettorale rispetto ai quesiti referendari ed ancora i mezzi radio televisivi non hanno filato. Tacciono. Anche perché formalmente, ma solo formalmente, poi sono le decisioni politiche quelle che contano, c'è bisogno del consenso, dell'ok riguardo al regolamento che deve regolare questa tornata referendaria, elettorale referendaria, da parte della cosiddetta commissione di vigilanza, no? Quindi esatto. Un fatto di questi giorni che ancora non si esprimono e si capisce pure perché, insomma. Sì, anche perché ci sono anche delle tappe, come dire, forzate a livello di Parlamento e di Corte di Cassazione, no? Esatto, ci sono anche queste cose. In base a quello poi... c'è stato spicheraggio, si è parlato di questa importante scadenza per Enel, per la banda dell'Alomo, come le chiamo io, ancora dopo 30-40 anni. Abbiamo spiegato, diciamo, e ai lavoratori che stanno dentro, perché questo è un posto anche di lavoro, certo, seppur impiegatizio, e a chi passava, poi secondo il flusso delle macchine, un po' di volantinaggio, cose del genere. Adesso al momento residiamo in una quarantina di persone qui davanti, piena di polizia da svariate ore, ben prima che arrivassimo noi, e tutto è svolto tranquillamente. Una nave di colore è forse da apprezzare, poi se si tramuta in un sì nel referendum che si faranno, questo lo vedremo alle urne. Comunque molte delle macchine che sono passate per Viale Regina Margherita, come anche i motorini, hanno strombazzato a lungo, o salutando direttamente con la mano, o dicendo qualcosa al volo, oppure quasi che fosse una sorta di corteo della sposa, no? Che tutti sono... Quindi penso che vadano interpretate come delle accondiscendenze rispetto a questo tipo di manifestazione sul problema del nucleare. A meno che stavano cercando Chicco Testa per salutarlo insieme a Veronesi. Chicco Testa non c'è più qua dentro da lunga pezza. Però come dire, è un convertito, è un pentito dell'ultima ora, no, ma della penultima sì però. No, è un convertito della prima. Sì, quando militava... Se non sbaglio era il presidente di Lega Ambiente. Sì, esatto. Se un destro tra virgolette fottuto, no? di quel movimento lì. Molto alto di Castro anni fa. Esatto. Va bene. Ti ringrazio. Grazie anche a te. E casomai a dopo, sì. Vediamo un po' come sviluppa eventualmente la cosa. Buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao.